Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, pronti per il sound check. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo. Questa è la prova del suono di Radio 24, che oggi ha una ospite tanto attesa, perché ho fatto più volte il suo nome nel corso delle ultime puntate del soundcheck, proprio per parlare del talento italiano nel jazz, di questa bellissima voce educata e raffinata che appartiene a una ragazza sicula che si chiama Daniela Spalletta. Buonasera Daniela e benvenuta al soundcheck. Ciao Gigi, grazie. Sono felicissimo di vederti, intanto perché ho tante cose da chiederti, poi per farti finalmente i complimenti personalmente per questa bella prova discografica intitolata The Bird, con la partecipazione degli Urban Fabula, e quindi Sebi Burgio al pianoforte, Alberto Fidone al contrabbasso, Peppe Tringali alla batteria e special guest Maxionata, poi c'è anche un quartetto d'archi che ci presenterai, un disco nel quale dai sfogo anche alla tua creatività, perché sei una bravissima vocalist ma anche una musicista, componi quello che canti e questo è un merito. Da dove viene questa tua passione per la musica? La passione per la musica è sempre esistita. Ovviamente ho fatto degli studi insomma nel corso della mia esistenza e quindi ho cercato insomma di esprimermi in questo primo disco sia appunto come cantante e anche come compositrice, che è una cosa che mi piace molto, mi diverte. Sì, ti piace osare, osi vocalmente anche come compositrice, e hai osato anche con questa prima pubblicazione, perché di solito il primo disco di un cantante, soprattutto di jazz, è un album con il quale esprime la sua passione per il repertorio, il catalogo, quindi gli standard. Sì. Invece hai usato subito, hai fatto provare ai musicisti le tue canzoni, le tue composizioni più che canzoni, perché tu scrivi da musicista, non da cantante. Sì, la scelta insomma non è stata molto ragionata, nel senso avevo questi brani scritti in periodi diciamo diversi, comunque tutti riconducibili allo stesso periodo, insomma avevo conosciuto questi ragazzi pazzi, gli Urban Fabula, e quindi casualmente diciamo discorrendo in determinate circostanze ci siamo detti che se mai avessi registrato un disco l'avrei fatto con loro, e lo hai fatto, sei stata di parola. Ecco, io a volte posso catalogare il nostro paese da un punto di vista geografico per la passione per la musica, e sicuramente la Sicilia è una delle regioni più fertili da un punto di vista jazzistico. Quanti meravigliosi musicisti ha sfornato la Sicilia da sempre, ma la nuova generazione è scioccante, impressionante, insomma se parliamo anche di Sebi Burgio che è giovanissimo, o i fratelli Cutello, sì, e sì. Poi una sfornata di cantanti incredibili, e tu confermi questa tradizione. Come mai? Perché la passione per il jazz in Sicilia, lo sai? Ma guarda, questa è una domanda che ricorre, onestamente non saprei trovare sicuramente una risposta definitiva. Penso che per quanto riguarda il jazz in Sicilia ci sono una serie di personaggi, di musicisti chiave, esatto, che hanno nel corso degli anni proprio creato questo ambiente, questo retroterra, insomma, adatto a far crescere, secondo me, i giovani talenti, insomma, i giovani artisti, insomma. Almeno io, la mia esperienza è quella di Giovanni Mazzarino, certo. Anche Rosalba Bentivoglio, certo. Vito Giordani, insomma tutta una serie di maestri che ho conosciuto nell'arco della mia preparazione. Ecco, allora parleremo della tua preparazione, lo faremo fra pochissimo, dopo aver ascoltato comunque uno dei brani tratti da questo tuo primo album, intitolato, lo ripeto, The Bird con Urban Fabula. Il brano, una tua composizione, si intitola You're Wrong, You're Right, cioè sei giusto e sbagliato, però sei tu, è così. Esatto. No? Daniela Spalletta, You're Right, You're Wrong, dal nuovo album intitolato The Bird, dal primo album, no? Questo è il disco, il debutto discografico grafico per te, giusto? Sì, sì, sì. Beh, ma ne farai tanti altri, vedrai Daniela, sono sicuro. Io invidio molto la tua tecnica, la tua preparazione. Come ti sei formata musicalmente? Ok, ho iniziato i miei studi facendo un percorso classico, dopodiché insomma mi sono avvicinata al jazz, un po' più grandicella. Però hai studiato al conservatorio? Sì, sì, sì, ho studiato al conservatorio sia il percorso classico che il percorso di jazz. Sempre come cantante, hai fatto anche pianoforte complementare? Sì, pianoforte complementare, tutte le materie inerenti, anche un po' di composizione, arrangiamento. E poi insomma tante altre cose, masterclass, seminari, in giro. Soprattutto in Sicilia, però anche qualcosa anche fuori dalla Sicilia. È così, perché in Sicilia si organizzano tanti festival di jazz, ma ultimamente da diversi anni a questa parte i direttori artistici organizzano anche le masterclass, sì, per cui i giovani talenti, gli allievi, possono incontrare i maestri di riferimento. E questa è una cosa molto importante, perché poi il jazz si apprende, il linguaggio del jazz si apprende sul campo, no? Frequentando, sì, sì, i maestri, ascoltando e rifacendo, giusto? Esatto, esatto. Veramente importantissimo. Quali sono stati gli incontri fondamentali per te? Allora, gli incontri i miei principali, il mio più grande, diciamo, maestro è stato sicuramente Giovanni Mazzarino. Poi ho un rapporto meraviglioso con Rosalba Bentivoglio, che è una straordinaria formidabile cantante artista di jazz, la salutiamo. Esatto, anche. Sì. E poi insomma ho incontrato nelle varie masterclass dei personaggi straordinari, insomma il primo che mi viene in mente è Steve Swallow, che si è rivelato un artista, ovviamente quello lo sapevo già, ma anche una persona di un'umanità straordinaria. Eh sì, i più bravi sono anche i più umili, è sempre così. È sempre così. Allora, Daniela Spalletta qui al Soundcheck, ascoltiamo proprio il brano che apre questa pubblicazione, quello che si intitola The Birth, e poi andiamo ad ascoltare anche l'informazione di Radio 24 e ritorniamo con la grande musica. Soundcheck. Il suono della musica. La voce infinita di Diane Reeves con Striding Up and Fly Right di Nat King Cole ad aprire la seconda parte del soundcheck di questa sera qui su Radio 24 con Gegé Telesforo e Daniela Spalletta, nostra ospite, per presentarci questo album d'esordio con gli Urban Fabula, album intitolato The Birth, che vede anche la partecipazione del meraviglioso sassofonista Max Ionata. Avrei elogi da fare nei suoi confronti, perché siamo amici, abbiamo suonato tante volte insieme, e anche perché è un musicista incredibile. Quanto è stato importante conoscere Max Ionata e avere Max Ionata in questa pubblicazione? È stato bellissimo. Tra l'altro devo dirti che la prima volta che ho conosciuto Max Ionata l'ho conosciuto ad un tuo concerto. Suonavi a Milazzo. Sì. Pensate. E lui era lì, ovviamente, insomma, io ero più spettatrice, guardavo questo concerto, ho detto fantastici tutti, c'era Domenico Sanna, se non ricordo male, forse Giuseppe Bassi. Sanna, giovanissimo. Sì, sì, sì. Quindi Max Ionata è stato un punto di riferimento, ovviamente, in questo disco. Lui ha suonato sia il tenore che il soprano in un brano, ha impreziosito veramente con la sua presenza, la sua musicalità. E avete realizzato una composizione intitolata Bleep and Forcing Variation, giusto? Yes. Per realizzarla avete utilizzato la forma, la struttura e le progressioni armoniche di una composizione in origine di Tom Harrell, giusto? Sbaglio? Esatto, da Munar. Praticamente abbiamo utilizzato quel chorus, Max ha fatto uno straordinario solo, diciamo, sulla seconda parte del brano, e io poi ho scritto un testo che ho trasportato, diciamo, nella prima parte del brano, che è in un'altra tonalità. Quindi hai scritto il testo su questo assolo di Max Ionata, esatto, e lo hai utilizzato per aprire il brano, esatto, giusto? Ho capito, esatto, bene? No, perché possono sembrare delle cose complicatissime, e lo sono, infatti, cioè, già ricantare un assolo così complicato non è da tutti, ma poi scrivere anche il testo e cantarlo non in siciliano, non in italiano, ma in inglese è difficilissimo per noi che non siamo madrelingua. Allora, ascoltiamo questa operazione da vocalist, proprio da John Hendrix, realizzata da Daniela Spalletta con Max Ionata, dall'album intitolato The Birth, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. e con Zahara, con questo brano scritto e interpretato da Daniela Spalletta, praticamente mi sono innamorato platonicamente di te, mia cara Daniela, al brano favoloso, una bellissima melodia immortale, classica e moderna al tempo stesso, un brano che mi sarei aspettato, che ne so, da Ennio Morricone, invece l'hai scritto tu. Che cosa hai mangiato prima di scrivere questa canzone? A chi pensavi, a cosa pensavi, da dove è venuta l'ispirazione per Zahara? Chi è Zahara? Guarda, non lo saprei spiegare, perché insomma, come tutte quelle cose ispirate, magari non c'è una motivazione ragionata alla base di questa composizione. È successo un giorno, insomma, come le cose belle della vita, quindi sono proprio... Sì, lo dico, è la cosa che mi ha colpito di più del disco, lo ripeto, questa tua abilità tecnica nel fraseggiare, nel proporre lo sket, nel parolare, vocalizzare gli assoli degli altri, scrivere melodie complesse con tutte quelle tensioni ritmiche, melodiche, armoniche, tutto quello che potevi fare lo hai fatto, e poi scrivere una melodia così bella. E mi ha colpito molto anche il fatto che tu l'abbia interpretata in siciliano. Questo è una gran bella cosa, è una bella lingua il siciliano. Sì, devo dire, la più bella. Allora, siamo arrivati praticamente ai saluti, mia cara Daniela. Non so se andrai a Valencia a seguire il percorso alla Berklee College of Music, ma intanto te sei già una musicista ormai formata, quindi porteresti te della bellezza lì alla Berklee di Valencia. Invece mi auguro che te possa restare da noi, o comunque girare il più possibile facendo la tua musica e i tuoi concerti. Sì, lo spero anch'io, anche ancora non ho ben deciso se andrò a Valencia, però insomma ho in cantiere un po' di concerti, poi insomma qualche lavoro discografico. Da poco ho registrato un po' di brani in un disco di un pianista pugliese che si chiama Donatello D'Attoma. Bravissimo. Uscirà tra poco per Alfa Music. Che cos'è, un disco di jazz contemporaneo? È un tributo a Charles Mingus. Favoloso. E lì insomma facciamo un po' di lavoretti in duo, tra l'altro, quindi una formula un po' impegnativa, ma tanto tu non hai problemi. Daniela Spalletta, grazie della tua partecipazione. Vi ricordo, si intitola The Bird il suo album, e noi ci salutiamo. Ti faccio ascoltare una cantante inglese, anche lei giovanissima, ma già con una buona esperienza alle spalle. Il disco è carino, e il brano che ho scelto per presentarvi, Emily Saunders, si intitola The Sending Down. Grazie Daniela. Grazie a te. A tutti voi buona serata, buona settimana, buona musica. Ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19:15 con la prova del suono, sempre e soltanto su Radio 24.